canzone mentre intanto penso a te. La scrivo con il cuore, spero non ti arrabbierai. In mente già da tempo mi frullava un'idea, perciò su queste note adesso voglio dirti che il tempo passa ma tu no, non passi mai. Passa questa melodia mentre intanto penso a te. La vita passa ma per me non passi mai. Devi andare ma rimani, resta ancora qui con me. Io e te che litighiamo, un giorno no e un giorno sì. Io e te non ci capiamo e non ci capiremo mai. Io e te che ci arrabbiamo, ma poi passa tutto sai. È il bene che ti voglio, quello no non finirà. Il tempo passa ma tu no non passi mai. Passa questa melodia mentre intanto penso a te. La vita passa ma per me non passi mai. Resta sempre in fondo al cuore, puoi restarci quanto vuoi. Io a volte un po' imbranato ed irascibile lo so. Tu dolce ed educata, a volte colta quasi, ma io credo che alla fine questo conti poco sai. Perché quello che conta è quello che proviamo noi. Il tempo passa ma tu no non passi mai. Passa questa melodia mentre intanto penso a te. La vita passa ma per me non passi mai. Devi andare ma rimani, resta ancora qui con me. Il tempo passa ma tu no non passi mai. Passa questa melodia mentre intanto penso a te. La vita passa ma per me non passi mai. Devi andare ma rimani, resta ancora qui con me. Il tempo passa ma tu no non passi mai. Passa questa melodia mentre intanto penso a te. La vita passa ma per me non passi mai. Resta sempre in fondo al cuore, può restarci quanto vuoi. Il tempo passa ma tu no non passi mai. Passa questa melodia mentre intanto penso a te. La vita passa ma per me non passi mai. Devi andare ma rimani, resta ancora qui con me. Passa, ma tu no, non passi mai. Passa questa melodia.